Letture di Radio 24. È nelle librerie, edita da Bompiani, la raccolta di racconti La farfalla e il semaforo, dell'autrice statunitense Cynthia Ozick. La scrittrice italiana Elisabetta Rasi le dedica un articolo sul domenicale di oggi del Sole 24 Ore. Nel 1985, in una lunga intervista alla Paris Review, l'aveva detto puntigliosamente: «Non bisogna scrivere di quello che si conosce, bisogna scrivere di ciò che non si conosce». Il punto è che il sé è limitato. Il sé, la soggettività, è angusto e costretto a ripetersi. A quell'epoca Cynthia Ozick era già una firma prestigiosa. Aveva cominciato a scrivere negli anni 60 sognando di farsi pubblicare dalla Partisan Review. Non era una ragazza della buona società. Figlia di due immigrati russi, aveva vissuto un'infanzia tranquilla all'ombra della farmacia del padre nel Bronx, malgrado qualche teppistello della zona le tirasse sassi perché era ebrea. Poi studi di medio livello, New York University, e un master all'Università dell'Ohio con una tesi su Henry James. James era il suo idolo e teneva d'occhio, come quasi tutti i giovani dotati di allora, il modernismo e le sue complicate sirene. Anni dopo, scegliendola per un omaggio sul New York Times, avrebbe esplicitato la sua ammirazione per una musa difficile e preziosa del Novecento, Gertrude Stein. Combatteva sul versante opposto di quegli scrittori, che il secolo aveva moltiplicato, perennemente all'inseguimento degli eventi della cronaca, pronti ad afferrare le schegge e i bagliori dell'attualità. Per lei, l'unica attualità possibile era la letteratura. La sua scrittura era nata da una lettura furiosa e onnivora fin dalla prima giovinezza. A 25 anni leggevo 18 ore al giorno, romanzi, filosofia, critica, poesia, storia ebraica. Leggevo e leggevo e questo mi ha trasformato in una specie di mostro. Ma nel suo paesaggio letterario, fin dall'inizio, c'era qualcosa destinato a suscitare, soprattutto a scuotere l'attenzione più di ogni scrittura in presa diretta. La presenza, come uno sfondo minaccioso, un sordo inevitabile frastuono di fondo, dell'Olocausto. Qualcosa contro cui, pur non volendo, le era impossibile non urtare, come accade del resto anche in Foreign Bodies, il suo nuovo romanzo. Ozick fu infatti uno dei primi scrittori americani, in anni in cui l'orrore di quanto era appena accaduto spingeva alla rimozione piuttosto che al racconto, a parlare della catastrofe degli ebrei europei, tanto da mettere in soggezione colleghi più famosi e più affermati, come Saul Bellow, il quale, si legge nell'epistolario dello scrittore ora pubblicato negli Stati Uniti, si giustifica mestamente con lei per non aver prestato in gioventù la giusta considerazione a quanto era accaduto dall'altra parte dell'oceano. Ma il suo modo di parlare della Shoah e più in generale della scomparsa, della soppressione di un mondo, non era né drammaticamente elegiaco, né nostalgico, né meramente accusatorio, come è evidente nei racconti pubblicati nell'ampio volume La farfalla e il semaforo, ora edito da Bompiani. Ozick fa parte di quel vasto gruppo di autori americani del secolo scorso che si sono formati e raffinati nell'arte della short story, potendo contare su una rete di riviste a larga diffusione. E rispetto a quanto finora tradotto in italiano, la nuova raccolta offre una conoscenza molto più intima e veritiera dello stile virtuoso, delle tematiche spinose e persino del carattere di questa scrittrice da noi mai davvero messa a fuoco. C'è qualcosa di consapevolmente sconcertante nella sua scrittura, una determinazione a sorprendere i lettori nelle loro aspettative psicologiche e a prendere in contropiede i racconti stessi. I suoi personaggi sono sempre in eruzione. Preda di un'emorragia verbale oppure di silenzi infrangibili, luminari del fallimento, mai al posto giusto. Che si tratti del rabbino che sostituisce l'etica ebraica con la devozione a mitiche e sensuali divinità della natura, o di Sigmund Freud, che con le sue interpretazioni non fa che andare contro il ritmo diurno delle cose, o delle dattilografe di Henry James e Joseph Conrad che compiono sataniche manipolazioni sui testi dei maestri, o del medico cecoviano innamorato dell'immagine di una donna vista in una fotografia di mezzo secolo prima. Ognuno di loro sfugge ogni compiacimento, delude ogni tentativo di facile identificazione in una impervia e appassionante sequenza di trasgressioni e paradossi. Se Flannery O'Connor pensava che chi scrive deve sporcarsi le mani con la polvere della vita, Ozick sembra pensare che debba sporcarsele con la sua imprevedibilità, non solo con la sua bizzarria, ma col suo imbizzarrimento. Nei racconti di questa potente, non sempre amabile autrice, la vita scalcia come un cavallo imbizzarrito. Non a caso, uno scrittore anomalo come Edgar Foster Wallace la considerava, insieme a Don DeLillo, la più grande tra i contemporanei. C'è un groviglio inestricabile, un maledetto imbroglio nella realtà. Descriverlo non basta, bisogna pensarlo. Fredda, cerebrale, Cynthia Ozick coi suoi rovelli mentali? Lei non la vede così. Per me, ha dichiarato con fierezza, le idee sono emozioni. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Le idee sono le emozioni più potenti, di Elisabetta Rasi, pubblicato dall'inserto culturale La Domenica, allegato al Sole 24 Ore di oggi e dedicato alla raccolta di racconti La farfalla e il semaforo, dell'autrice Cynthia Ozick. Momenti difficili per il governo. Dalla mozione di sfiducia, lanciata dalle opposizioni e dal terzo polo, persa per una manciata di voti, fino alle recenti indagini avviate dalla Procura di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio, senza dimenticare che da mesi ormai aleggia lo spettro delle elezioni anticipate. Ma se si andasse al voto, chi vincerebbe davvero? È ormai evidente che Berlusconi comanda ma non governa. Non fa neppure la destra. Non taglia la spesa pubblica e le tasse, non liberalizza, non privatizza, consolida l'impero di famiglia. Le poche cose buone del suo governo si devono a Tremonti e a Maroni. Prima se ne esce, meglio è. E se ne uscirà quando apparirà all'orizzonte un'alternativa votabile dalla maggioranza degli italiani. Dal berlusconismo non si esce a sinistra. La sinistra non ha i voti, né il leader, né la sintonia con il paese, in particolare con il nord. Può contribuire, non guidare. Ma per costruire l'alternativa a Berlusconi è forse ancora possibile aggregare i moderati attorno a valori oggi negletti: merito, legalità, responsabilità e nazione. Per questo il polo della nazione è una cosa seria. Certo, se sarà un cartello elettorale tra Finiani, Casiniani e Rutelliani, se si limiterà a un'alleanza tra nomenclature e ceti politici logori e mediocri, non andrà da nessuna parte. Ma se saprà aprirsi alla società, agli studenti e ai loro professori, agli imprenditori, ai cattolici, e trattare da posizioni centrali un accordo con la sinistra riformista, allora potrà giocare un ruolo cruciale. Non si supera un'era politica con le manovre parlamentari. Ci hanno provato. La fine è nota. Si supera il berlusconismo con un'operazione di respiro che dia rappresentanza a valori e interessi a lungo trascurati. Se gli italiani danno il meglio di se stessi nei momenti drammatici, mi sa che ci siamo. Le urgenze sono sotto gli occhi di tutti. Sostenere le famiglie del paese al mondo che fa meno figli, per giunta aggravati dal maggior debito pro capite, rilanciare l'economia che negli ultimi 10 anni è cresciuta di meno, tenere insieme un nord e un sud sempre più rancorosi e diffidenti l'uno dell'altro, evitare che la nascita delle leghe disgreghi definitivamente l'unità nazionale. Abbiamo un grande patrimonio. L'Italia, un nome apprezzato in ogni continente, sinonimo di arte, cultura, qualità, cibo, saper vivere. Vale a dire i beni più richiesti da un mondo globale che ci fa tanta paura, mentre rappresenta per noi una grande opportunità. L'Italia non è solo il paese più bello. È anche un brand, un marchio che funziona. Vediamo di valorizzarlo, anziché cancellarlo. Certo, l'Italia è molte altre cose ancora. Ricordiamocene, oggi che non si tratta di celebrare il 150° compleanno della nostra nazione, ma di salvarla. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Terzo Polo? Una cosa seria di Aldo Cazzullo, pubblicato dalla rivista 7, allegata al Corriere della Sera di giovedì 13 gennaio. Ronald Reagan è stato il 40° presidente degli Stati Uniti dal 1981 al 1989 e fu noto anche come il grande comunicatore per via del suo carisma e della sua capacità oratoria. Tuttavia, a metà degli anni 90, il mondo conobbe la sua malattia, l'Alzheimer, e decise di sparire dalla scena pubblica. Quando stava alla Casa Bianca, Ronald Reagan irrideva le sue piccole smemoratezze da anziano, quasi fossero un altro vezzo del dilettante diventato presidente. «Dottore, le devo dire 3 cose. La prima è che sto perdendo la memoria. La seconda e la terza... non me le ricordo». scherzò col medico durante uno degli ultimi check-up presidenziali. La rivelazione della lenta, irreversibile e incurabile perdita di sé piomba addosso a Reagan anni dopo. È il 3 febbraio del 94. L'ex presidente è volato a Washington da Bel Air per festeggiare con gli amici il suo 83esimo compleanno. Margaret Thatcher gli dà il benvenuto. Reagan va sul podio e inizia a parlare, ma dopo un po' rallenta, incespica sulle parole, le cerca con la rabbia di un Barney Panofsky, che non trova più i nomi dei 7 nani. Poi riparte con la voce di sempre. Il grande comunicatore, dopo quella sera, non parlerà più in pubblico. In autunno, 2 mesi dopo che gli è stato diagnosticato l'Alzheimer, Reagan scrive di suo pugno una lettera d'addio agli americani. «Ho appena iniziato il viaggio che mi condurrà al tramonto della mia vita». E sparisce 10 anni prima della sua morte. Reagan era già malato da tempo. Fa sapere ora il figlio, ribelle, Ron, a un'America che tra 2 settimane celebrerà il 100° anniversario della nascita del Jeeper. Nel suo omaggio al padre, Ron ricorda il giorno del duello televisivo con Walter Mondale, nelle presidenziali del 1984. «Ho un tuffo al cuore mentre papà risponde a fatica, confuso tra i suoi appunti, in cerca di parole che non trova più. Il figlio prediletto, Michael, non ci sta». Mio fratello imbarazzava mio padre quando era vivo e oggi è diventato motivo di imbarazzo per mia madre. Davvero Reagan ha guidato il mondo libero durante il suo secondo mandato con un Alzheimer in fase avanzata? Nancy non si pronuncia. E anche il conservatore Michael, come il liberal Ron, ha un libro in uscita da promuovere, The New Reagan Revolution. Non può fare chiarezza il desolante contenzioso fra fratelli che si accapigliano sulla memoria di Reagan come il figlio di Barney corregge e ripulisce l'inaffidabile versione del padre malato. Non poteva essere demente e fare quelle cose, assicura Michael, ansioso di separare il presidente che ha fatto la storia e l'anziano malato che se ne è dimenticato. Teniamoci il dubbio e liberiamoci dalla pesante linea d'ombra che cade tra salute e malattia. Il grande comunicatore, forse, aveva l'Alzheimer e da demente ha vinto la guerra fredda. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Reagan, Alzheimer o no, vinse la guerra fredda, di Luigi Spinola, pubblicato da Il Riformista di mercoledì 19 gennaio.